And when you're right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Cari amici di Runtime Radio e anche detti belli de casa, benvenuti a questo primo episodio di un nuovo show su Runtime Radio. Un nuovo show che tutti potreste dire, sì, ma sei sempre tu a fare gli show. A parte che questo non è più tanto vero, ma in realtà sì, in questo caso creiamo questo nuovo format, questa nuova idea, che nasce tra l'altro da una proposta, da una richiesta che ci è stata fatta dal nostro Morgan, persona che ci ascolta oramai penso da sempre, e che ci ha chiesto perché non parli di come funziona un po' di quello che è dietro le quinte di una web radio. E in realtà da questa idea, da questo spunto che lui mi ha dato, riprendo un po' un'idea che ci avevo da tantissimo tempo e che avevo proposto anche ad Alex, e che volevamo fare in video, volevamo fare in live, volevamo fare in radio, volevamo fare in podcast, in realtà non avevamo mai ben focalizzato, che è quello insomma di condividere in maniera quanto più strutturata possibile quelle che sono le nostre esperienze rispetto a questo tipo di discorso, sia quello del podcast e della web radio, soprattutto in un periodo come questo dove chiaramente vedo tantissime persone che si prodigano a fare tutorial, corsi, videocorsi. E ho visto tra l'altro su Instagram che c'è una scuola di podcasting, che a me fa un po' ridere sta cosa, però in realtà c'hanno ragione loro, cioè nel senso quelli che stanno dalla parte del torto siamo noi, non sono assolutamente loro, perché non abbiamo mai colto, diciamo, questo tipo di messaggio, no? Di aggancio, il fatto che comunque oggi il podcasting è diventato un fenomeno di moda che è motivato dalle piattaforme che iniziano a monetizzare e che portano, come abbiamo detto tante volte, gli influencer a fare podcast che altrimenti probabilmente non avrebbero mai fatto, proprio per creare insomma una sorta di introito e per portare le persone a essere stimolate a fare questo tipo di progetti. Chiaramente la maggior parte dei progetti e delle persone che iniziano, intraprendono il discorso della web radio e del podcasting lo faranno, come si dice, a fondo perduto, però insomma poi magari tra questi nascono quelle idee buone che alla fine comunque in qualche maniera emergono in qualche modo, anche se purtroppo non è così tanto vero questo tipo di discorso. Noi lo dicevamo insomma un decennio fa, quando alla fine i podcast sono stati, diciamo tra virgolette, in Italia soprattutto lanciati da iTunes, era difficile emergere perché all'interno della categoria podcast c'erano tutte le trasmissioni in replica delle radio, e quando questa cosa insomma diciamo ha assunto una dimensione diversa e c'era quello spazio, era creato quello spazio vuoto dove poter emergere, alla fine sono subentrati gli influencer. Quindi poi fondamentalmente a livello di spazio di emergenza, di emergimento, come si può dire, insomma le cose non è che sono cambiate poi così tanto, però insomma alla fine c'è l'interesse, c'è la passione, c'è un movimento che si è costruito, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Noi però in questo caso, in questo format, ci concentreremo più su quello che è il discorso della web radio, poi più in là parleremo anche di podcast, insomma di quello che ci riguarda più da vicino. Quindi ecco, colgo l'occasione appunto di questo, e ringrazio ovviamente Morgan per questo spunto, perché noi tante volte andiamo a spunti, cioè abbiamo delle idee messe lì nel cassetto, poi diciamo vabbè, ma tanto è, invece poi magari arriva qualcuno e dice guarda che può essere interessante, e allora la famo. Quindi fateci sapere insomma nei commenti, su Spreaker, quando verrà aperto il feed, penso insomma nella giornata già di oggi, per chi ascolta in diretta e per insomma per quelli che poi se lo troveranno, si troveranno già il feed aperto, quindi costruiremo proprio il feed, il podcast specifico di questo programma, che è come ti costruisco la web radio, e questo è l'episodio 1, insomma diciamo una sorta di episodio introduttivo, che spezzeremo ovviamente con dei brani di Epidemic Sound, dato che paghiamo la licenza, insomma perché non sfruttarla da questo punto di vista, fin quanto decideremo di pagarla, insomma decideremo ovviamente di sfruttarla. quindi nasce questa idea. Se vi piace, appunto, fatecelo sapere, sia qui in chat per chi è in diretta, sia per chi ascolterà il podcast in differita. Magari mandateci dei messaggi oppure scriveteci a runtimeradio@gmail.com, dove potrete ovviamente decidere, insomma, di sostenere questo progetto, magari semplicemente con le parole, oppure andando su runtime.it, cliccando sul tasto anche io e facendo una donazione. Magari all'interno della donazione una tantum su PayPal, scrivere proprio nel messaggio: ci piace questa idea di come ti costruisco la web radio. E oppure, insomma, se proprio volete sostenere tutto quanto il progetto, che sapete, insomma, che è grosso, è enorme e richiede comunque un impegno, potete farlo tranquillamente sempre tramite il tasto anch'io su runtimeradio.it, utilizzando ovviamente il nostro Patreon che sta lì per essere utilizzato. Grazie a tutti e vabbè, un brano ed iniziamo. Eccoci qua, allora, questa si chiama Think Troop, Gagliardo, Wellness Fit Van Psyche è scritto come se fosse Psyche con la K e la E finale. Carino questo brano, come insomma abbiamo oramai imparato a capire tutti i brani di Epidemic Sound. Allora ragazzi, iniziamo con il presupposto più banale che possa essere all'interno di un discorso come questo, che vuole essere una sorta di percorso poi didattico, mi è da ridere, ma insomma educativo, ma neanche, insomma vabbè, un percorso informativo, ecco, chiamiamolo così. E dobbiamo farci subito delle domande fondamentali, che sono forse le più banali. Quando si decide di mettere su un qualsiasi tipo di progetto, che sia una web radio, un podcast o qualsiasi altra cosa che la si fa anche per passione, diciamo che bisogna focalizzarsi un attimo sui motivi, no? Cioè, nel senso, qual è l'obiettivo, qual è lo scopo, qual è la caratteristica che si vuole dare, chi la fa, per quale motivo la fa e soprattutto con chi la fa, che è ancora più importante, perché chiaramente un podcast è una cosa che tu prendi, scrivi, prendi un microfono, fai un editing e lo butti nella mischia. Una web radio richiede comunque un meccanismo dietro che può essere messo su anche da solo, però diciamo che da solo forse ha senso fino a un certo punto, no? Questo è un discorso che faremo poi, vedrete anche, vi spiegherò anche il perché. Il discorso del... tante volte mi capita di aprire internet, o mi capitava, ma mi capita ancora perché ecco ancora così, e scrivere accendere una web radio, fare una web radio, come si fa una web radio, e ci sono decine e decine di link che praticamente non fanno altro che dire come aprire una web radio in 5 minuti, come aprire una web radio in gratis, come aprire una web radio così e colà. E alla fine sì, no? Nel senso, ovviamente è tutto clickbait, sono tutti aranzulla de no altri che praticamente non fanno altro che fare un copia e incolla di tantissimi articoli che già sono in circolazione, dove c'è un corpo del testo che non dice niente fino alla fine, dove ti dà quelle tre o quattro istruzioni che possono essere, ad esempio, fai l'abbonamento gratis a Spreaker e vai live, già sei una web radio, no? Cioè, che di per sé come concetto ci può anche stare, no? Però l'abbonamento gratis di Spreaker, come tutti gli abbonamenti gratis, sono abbonamenti fatti per provare una cosa, per sperimentare, tant'è che con l'abbonamento gratis tu puoi caricare massimo fino a 10 ore di contenuti e puoi fare massimo fino a mezz'ora di live. Quindi ovviamente che web radio è, cioè nel senso, una web radio tende, sia amatoriale che semi professionale che professionale, tende ad essere quello che è una radio, ossia un contenitore, un broadcaster che trasmette 24 ore su 24 contenuti, che è forse la cosa più complicata un po' di tutto questo discorso. Quindi quando uno vede di queste cose, insomma, gli viene un po' in mente una cosa di cui poi probabilmente sarà oggetto della seconda puntata, ossia un po' la storia, no? di come nasce questo discorso delle web radio, dell'affascino che molti avevano, no? Una volta con Napster si faceva, mi pare, non mi ricordo, sai? Comunque tu trasmettevi degli MP3 tramite web e tra virgolette avevi fatto una web radio con tutte quelle che erano le limitazioni di una volta, che erano ovviamente la banda, la velocità di trasmissione, internet ancora non era quello che è oggi, e quindi tutta una serie di determinate cose. Quindi alla fine poi sono nati dei discorsi successivi che si basavano su dei costi importanti, dove potevi avere al massimo 50 ascoltatori per volta, tutta una serie di cose che appartengono un po' al passato, che però poi alla fine comunque sono state importanti, perché ci hanno permesso a tanti di sperimentare nella sottocantina quello che magari negli anni 70 facevano tanti ragazzi con le radio pirata di quartiere, no? che stavano lì dentro sotto al solaio praticamente e stavano lì con un registratore, un mangiadischi è un'altra cosa, e un trasmettitore FM, dove ovviamente si poteva fare questo tipo di discorso. Ecco, se prendo ad esempio Runtime Radio rispetto a tante altre radio, altre web radio, mi rendo conto che il nostro è un progetto che è nato nel momento in cui poteva nascere, ossia quando avevamo già un numero di contatti e di maturità tale da poter approcciarsi a questo tipo di discorso. Perché se no è vero, tu puoi andare su internet e con poco tempo scegliere magari un servizio di streaming e trasmettere 24 ore su 24. Il problema è cosa vai a trasmettere, cioè nel senso, per dire ok, c'ho una mia web radio e avere magari musica trasmessa 24 ore su 24 senza magari particolari contenuti, ogni tanto magari accendere il microfono e dire qualche cosa, va bene anche quello come tipo di esperimento, però secondo me appunto la cosa importante è capire chi vuole fare la radio, con quante persone la vuoi fare, che è la cosa più importante, con quante persone la puoi fare, E soprattutto perché cosa? Cioè, se l'obiettivo è quello di avercela e basta, è facilissimo. Se l'obiettivo invece di dargli una connotazione, una caratteristica, già richiede una progettualità, anche un'idea. Perché poi vedremo che ci sono dei problemi oggettivi, soprattutto in Italia, riguardante il discorso delle web radio. Sono dei problemi che sono legati a quello che possiamo e non possiamo fare, al fatto che ci sono delle licenze da rispettare, ci sono delle patenti da gestire. Ovviamente il suggerimento di partenza che do sempre io è partire come radio puramente amatoriale, anche non riconosciuta, cioè nel senso anche senza un'associazione dietro, perché è il modo di essere più invisibili possibile. E questa è una sorta di contrapposizione, no? Diciamo concettualmente. Allora, perché lo faccio? Lo fai per fare esperienza, acquisire una tecnica, acquisire una consapevolezza dal punto di vista della costruzione, ovviamente, di quello che è una radio, ed arrivare a un punto in cui pensi di aver raggiunto un numero di collaboratori tale e un numero di contenuti tale e una verosomiglianza tale alle radio più professionali o semiprofessionali, da poter iniziare un percorso diverso, che è quello dell'istituzionalizzazione della radio e di andare poi verso altri tipi di percorsi. Quindi ovviamente questa un po' è la cosa, il primo passo. E poi sono i contenuti, cioè che tipo di connotazione sarà la tua radio? La radio sarà una radio musicale, sarà una radio musicale tematica, sarà una talk radio come ad esempio è Runtime Radio? E questo è un passaggio importante dal punto di vista strettamente concettuale, perché ti permette di capire quali sono le risorse che tu hai e che puoi investire, e ti permette anche di capire quanto è il tempo che tu dedicherai a questo tipo di progetto, qualora un giorno questo progetto volesse diventare anche qualcos'altro. Perché se si è ultra specializzati nella musica copyleft trance, eccola là che tu ovviamente hai la possibilità di costruire questo tipo di progetto e dedicarci il tempo che è necessario. Se tu invece vuoi trasmettere dei contenuti dal punto di vista proprio più generale, più basato sul talk, sulla discussione, sull'informazione, sulla divulgazione, chiaramente lì il discorso diventa molto molto più complesso, e quindi entriamo un po' più nel vivo di quello che è ovviamente questo tipo di discorso. Ed eccoci qua che torniamo. Ovviamente adesso, ovviamente, io ho fatto un errore. Intanto questo sono gli Wellness con I Know We Gotta Get It. Insomma, capito? Cioè, questi sono quei titoli fatti apposta per far venire l'ictus a Simone Pizzi, chiaramente. Cioè, proprio scritto nella licenza. Comunque, giustamente Walter ci fa presente che non era Napster, che era solo per il download, ma si faceva con Winamp. Ed è vero, scusa. Tra l'altro, ecco, vedi, è apparso giustamente DJ Joker all'orizzonte, ed è la seconda persona che dovrei ringraziare, perché in effetti non che mi mancassero le risorse, forse mancava più il coraggio, anche se poi noi negli anni ne abbiamo fatte tante di sperimentazioni di live, cioè, quindi c'era un periodo in cui trasmettevamo anche 24 su 24 su Spreaker, però poi alla fine comunque diciamo che DJ Joker di Revolver Radio, che ricordo insomma è una radio insomma che va giustamente per la sua strada, con la quale abbiamo ovviamente un'amicizia, poi probabilmente magari in qualche maniera ci saranno degli interscambi, poi già ci sono stati, quindi poi alla fine, ecco, insomma, diciamo che Davide è uno di quelli che ha detto: ma perché non mettere su, cioè, no, prova a fare questo, prova a fare quell'altro, e mi ha dato un po' quelle che erano le indicazioni generali, che, come ribadisco, cioè, nel senso, era più una sorta di incertezza, è stato più motivazionale che strettamente informativo, non perché le sue informazioni non fossero valide, anzi sono state importanti, ma che poi in realtà, cioè, voglio dire, quando sono partito è stato poi facile, no, mettere su, al di là del fatto di aver cambiato 5-6 volte sistema, perché sapete, un po' all'inizio è un po' così. Comunque, ritornando un po' al discorso che facevamo, servono dei contenuti, cioè sia in diretta che non. Allora, secondo me, ribadisco, ritorno mai al secondo caso, quello della musica, poi lo faccio fra poco. Se invece si vuole fare una talk radio, chiaramente servono dei contenuti. Allora, noi, per quanto riguarda il nostro tipo di esperienza, noi abbiamo sei trasmissioni che vanno live e che coprono magari gli orari della mattina, la sera e a volte il dopo cena, quindi alla fine ci sono molti programmi in runtime che vanno in live, e questo generalmente, rispetto a tante web radio che io ho conosciuto e che magari mi è capitato, insomma, è già, non dico un'eccezione, ma insomma è un punto di forza, perché non tutte le web radio hanno, diciamo, tanti show da mettere a disposizione. E devo anche dire che noi abbiamo lavorato per tantissimo, per una stagione, diciamo così, per una web radio a Roma, io, Michela, Marco, Luca Casciola e via dicendo, per una web radio romana che aveva investito del denaro, cioè aveva comunque, era comunque entrata in una condizione semiprofessionale, aveva i diritti SIAE, e investiva, cioè, sul luogo dove erano in affitto, quindi insomma avevano costruito uno studio e tutto quanto. Ma noi ci abbiamo più programmi di loro, poi, fondamentalmente. Ora, a parte, non so ancora se esistano, perché secondo me sono un po' andati a zampa all'aria, però l'idea funzionava, l'idea era geniale. Comunque, chiedere la collaborazione dei speaker, avere delle pubblicità anche se c'erano poche, pagare e via dicendo, insomma. Quindi alla fine quello che conta è avere dei contenuti, avere delle persone che apprezzano e hanno desiderio di collaborare con voi, soprattutto desiderio, perché all'inizio è questa l'unica cosa che si può fare, cioè avere diciamo la collaborazione con le persone sulla base volontaria e del piacere di far parte di un gruppo, di un'appartenenza, di un progetto che ha nella sua totale apertura mentale, come Runtime ad esempio, diciamo un obiettivo comune, no? Un senso appartenenza, che è una cosa importante, e avere la possibilità di fare degli show live durante l'arco della giornata, distribuiti o anche settimanalmente, è una cosa abbastanza importante, perché permette alla radio di avere contenuti, senza considerare il fatto che avere un speaker che sono magari esterni anche, quindi che entrano a collaborare, portano anche ulteriori ascolti, quindi diciamo ulteriore forza anche morale alla radio, perché come abbiamo detto noi all'inizio, se iniziamo da radio amatoriale non possiamo entrare in quelli che sono i meccanismi anche di remunerazione, in teoria, anche se poi noi, diciamo, abbiamo il nostro piccolo indotto dovuto al supporto di tutti quanti quelli che ascoltano Runtime Radio e qualcosa ovviamente alla monetizzazione di Spreaker, ma quella è legata ovviamente al discorso dei podcast. E servono anche contenuti offline, cioè nel senso fuori dallo streaming, non on air, c'è praticamente tutto quel materiale che magari hai acquisito. Nel nostro caso questa cosa è abbastanza un elemento di fortuna, ecco perché io ho detto secondo me Runtime Radio è nata nel momento in cui doveva nascere, è nata nel momento in cui avevamo contenuti a sufficienza. Noi abbiamo migliaia e migliaia di ore di contenuti che abbiamo fatto in 10 anni, certo non tutti possono essere, come posso dire, diciamo update, insomma, rispetto a quella che è la situazione, aggiornati, diciamo, rispetto a quelle che sono tante situazioni tecnologiche, informative, politiche, insomma, sicuramente. Però è comunque interessante dedicare uno spazio magari alla storia. Noi per esempio abbiamo costruito con il nuovo server, poi ne parleremo più avanti nelle prossime puntate, comunque un palinsesto dove a un certo punto della giornata c'è un podcast storico a partire ovviamente da vecchissimi podcast, e contestualizzato quello è un momento in cui, se uno va a ascoltare, ascolta anche cose che fanno parte del passato. Quindi servono contenuti, ragazzi, la cosa più importante, ho detto ovviamente seguendo poi quello che è l'approccio e l'ordine che volete dare alla vostra radio. Serve ovviamente anche della musica, sia per i momenti in cui non c'è una trasmissione che sia in live o sia in differita, e sia magari proprio per la notte, quando ovviamente comunque la radio resta accesa e magari non ci sono contenuti, no? Noi la notte trasmettiamo le repliche di Runtime by Night, ma se uno non ha quel tipo di contenuti, chiaramente è difficile, insomma, tenere una radio accesa e avere il vuoto. Quindi ecco, la musica è una cosa importante, e qui ovviamente entriamo in un ambito che è quello delle licenze, che affronteremo poi successivamente. Quindi partiamo dal fatto che siamo una radio amatoriale che non ha comunque determinati presupposti, che sono quelli ovviamente del poter investire determinati soldi, e quindi si va su quelli che sono i siti di Creative Commons, copyright, copy zero, dove si va a cercare ovviamente tutta quella musica gratuita, sia in senso tematico, se siamo una radio che fa techno piuttosto che trap o via dicendo, sia se si è una radio musicalmente generica, e quindi si acchiappa tutto. Io per esempio, la mia esperienza è quella di essere andato su Giamendo, aver scaricato l'inverosimile, averlo messo all'interno di una cartella di rotazione musicale, e poi piano piano durante l'ascolto scremare le zozzerie, perché chiaramente diciamo che se fare una web radio dedicata alla musica da un certo punto di vista è quello che durante l'arco della giornata può darti meno impegno, dall'altra però ovviamente ti richiede una selezione. La selezione è praticamente impossibile, soprattutto perché la maggior parte di queste musiche, di questi artisti, neanche li conosci. Quindi diciamo, noi siamo partiti dal gonfio. Questo non significa che è un metodo che va applicato per tutti. Noi abbiamo fatto così, cioè questa è stata la scelta che abbiamo fatto noi. Quindi riempire di giga e giga la cartella di rotazione musicale generale, e poi piano piano scremare durante l'ascolto, tramite il suggerimento degli ascoltatori, tramite il tempo che noi dedichiamo all'ascolto. Quando capitano quei brani che sono o solo musicali o fanno veramente schifo, vengono eliminati e cancellati per sempre ovviamente dal database, e questo negli anni ovviamente ha portato, non negli anni, nei mesi, anche se penso che oramai è più di un anno che facciamo streaming, forse è anche un anno e mezzo che siamo proprio web radio, sai che ho perso un po' il conto. E comunque nei mesi, insomma, alla fine ha aumentato la qualità complessiva della musica che noi trasmettiamo. Poi ovviamente quando ci saranno le possibilità di avere delle licenze, le cose cambieranno, ma cambieranno in tantissimi sensi, insomma. Poi servono assets specifici della radio, ossia servono dei jingle, e servono degli station ID, cioè comunque degli identificativi che riconoscano ovviamente la radio durante la rotazione, perché sennò è come se uno apre Spotify con l'abbonamento. Adesso faccio l'esempio, ovviamente non è Spotify perché è musica copyright, però è come se io metto praticamente della roba in rotazione e parte solo con la roba in rotazione senza un identificativo. Non è neanche elegante, no, da un certo punto di vista, cioè non c'è personalizzazione, sembra che è una cosa proprio buttata lì, no? Oltre al fatto che comunque aiuta proprio ad avere una personalizzazione. Noi abbiamo tantissimi jingle. Alcuni indicano il sito, alcuni indicano le donazioni, alcuni non so, semplicemente ricordano i nostri social. Abbiamo tanti jingle e abbiamo anche degli station ID, cioè nel senso, comunque noi abbiamo anche gli speaker che dicono sono speaker di Runtime, questa è Runtime, ascolta Runtime. E poi abbiamo anche diversi file creati proprio dagli ascoltatori. Sono Giuseppe da Caltanissetta e un saluto a tutti gli amici di Runtime Radio, oppure anche io ascolto Runtime Radio. E questi sono elementi che tu metti a rotazione all'interno della rotazione generale, creando ovviamente delle sottorotazioni più specifiche per questo tipo di contenuti, che si inseriscono all'interno della rotazione generale ogni 5 brani, ogni 4 brani. Questo è una cosa che poi vedremo più specificatamente dal punto di vista tecnico quando affronteremo proprio il modo in cui si creano le rotazioni. Però ecco, diciamo che questi sono contenuti che sono abbastanza importanti. E poi ci sono i promo, che chiaramente, non potendo mettere elementi pubblicitari all'interno di una radio amatoriale, noi per esempio sfruttiamo facendo i promo dei nostri stessi programmi o di qualcosa che è affine o vicina alla radio, quindi un progetto che non è interno alla radio ma che è comunque un progetto che si vincolerà o è vincolato o è vicino alla radio, quindi costruendo praticamente questo promo e lasciandogli questo spazio, che ovviamente non sarà a pagamento ma sarà semplicemente sul contributo dell'amicizia, nel senso comunque sul fatto di sostenere quel progetto, che presto sarà un progetto che in qualche maniera farà parte del nostro know-how, oppure semplicemente è un progetto che si basa proprio su un interscambio di pubblicità. Io ti promoziono a te, tu mi promozioni a me e vediamo poi quello che succede. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the I feel alive. E lui, sempre da Epidemic Sound, è Tom Towers con Time on Your Side. Allora, secondo me, se uno si chiama Tom Towers, significa si chiama Tommaso Torri. E vabbè, sì, giustamente Walter ci ricorda che dalla pandemia, quindi da più di un anno. Beh, in effetti dal primo lockdown sicuramente avevamo già iniziato, diciamo così, ma al periodo in cui c'è stato il primo lockdown, vi ricordate una cosa della quale noi continuiamo e continueremo sempre ad andare orgogliosi, che era quella di almeno una live al giorno, e poi abbiamo finito per riempire il palinsesto di robe e fare compagnia alla gente. È stato un momento drammatico, difficile, che è stato complicato, ma allo stesso tempo un po' rimpiango, no? Cioè, nel senso, in qualche maniera è stato bella questa senso di comunione e coesione. Dunque, ragazzi, cosa c'è da fare all'atto pratico a un certo punto? Perché adesso abbiamo parlato un po' di quello che è il discorso di perché fare una radio, che cosa metterci dentro a questa radio. Adesso, insomma, andando al succo, insomma, diciamo, della questione, anche qui mi tengo un po' sul generico, perché poi su ogni puntata approfondiremo proprio in senso proprio tecnico, diciamo, quello che sono ovviamente le cose da fare all'interno di questo discorso della web radio. La prima cosa da fare è acquisire o costruire un sistema di streaming. Allora, io, come ho detto già in principio, suggerisco, che poi è il percorso che abbiamo fatto anche noi nonostante gli anni di esperienza, insomma, diciamo così, all'inizio io suggerisco quello di scegliere la possibilità di acquisire un server specifico per lo streaming tramite un servizio. Diciamo che oggi non ci sono più le limitazioni che c'erano un tempo. Una volta acquisire un servizio per web radio poteva costare dai 35 ai 50 dollari al mese, e le limitazioni erano parecchie. Lo spazio disco era piccolo, la banda era limitata e il numero di ascoltatori era in proporzione a quanto tu pagavi, quindi potevi avere dai 25 ai 50 ascoltatori massimo, no? Che non è che, diciamo, che con una web radio amatoriale li superi sti numeri, però insomma, diciamo che complessivamente c'erano delle limitazioni. Oggi diciamo che con 10 dollari al mese, se proprio vogliamo proprio scialacquare, hai strutture che ti danno, insomma, molto molto spazio su disco e ti danno banda streaming illimitata, ascoltatori illimitati, e quindi, diciamo, da quel punto di vista sei abbastanza avvantaggiato. Poi chiaramente ci sono anche dei servizi che costano di più, perché si applica poi ovviamente una professionalità superiore, diciamo una quantità di spazio superiore, e magari anche dei servizi aggiunti che sono magari di maggiore vantaggio. Ma tenete in considerazione che la stragrande maggioranza di questi servizi sono in America e sono pensati per l'America, quindi magari fare un piano pro dove magari si contempla anche l'interscambio pubblicitario o via dicendo, a noi, insomma, diciamo, ci interessa fino a un certo punto, perché non è una cosa che riguarda noi poi fondamentalmente. E quindi partiamo sempre dal basso con un servizio che sia fattibile e via dicendo. La maggior parte di questi servizi installano all'interno del pannello di controllo che voi avrete ovviamente di questo spazio server che vi siete acquisiti dei software che sono dei software che servono per gestire il server radio ovviamente, e anche la regia automatica. Perché il primo presupposto fondamentale è quello di avere una regia automatica, ossia un sistema che permetta lo streaming e la trasmissione di contenuti 24 ore su 24 in continuazione, senza nessuna limitazione, senza nessuna interruzione. Indipendentemente dal fatto che siete una radio che farà prevalentemente live piuttosto che contenuti in differita, questa cosa è comunque importante, perché permette alla radio di essere attiva anche quando voi non siete attivi, e questa è una cosa fondamentale. E anche di questo tipo di software ovviamente parleremo poi, sia dal punto di vista desktop che da un punto di vista web, che insomma ovviamente sono quelle importanti. Da qui c'è una decisione che è una decisione strategica, sebbene comunque io continuo a dire, indipendentemente dalle due decisioni che si o dalle tre decisioni che potete potete prendere comunque una rotazione musicale di jingle, di promo all'interno della regia automatica, la dovete assolutamente mettere, è fondamentale, perché comunque può anche succedere che perdete ovviamente la linea, non perdete lo streaming, qualsiasi cosa. Quindi i vari metodi sono tre, secondo me, fondamentale. Un metodo completamente offline, ossia praticamente la vostra radio si basa totalmente sulla piattaforma web, quindi ovviamente sulla regia automatica, che poi ovviamente imposterete secondo le vostre esigenze, le vostre necessità, con la schedulizzazione e tutto quanto, però si basa totalmente su quello, quindi magari dei contenuti precostruiti, quindi già registrati, che vanno a determinati momenti della radio all'interno di quella che è la regia ovviamente automatica on web. Metodo full in streaming, cioè nel senso, voi decidete, questo ovviamente indipendentemente dal server, il server comunque vi serve, cioè nel senso, decidete che praticamente tutto quello che trasmette la vostra radio non passa per la regia automatica del web, ovviamente a meno che non ci sono particolari eccezioni, tipo andate via la corrente, non c'è lo streaming e via dicendo, ma trasmette totalmente full 24 dalla vostra postazione centrale, dove c'è un computer e c'è un software di regia automatica con tutti i contenuti pre-organizzati, pre-schedulizzati, con playlist, con gli orari, con tutti i vari sistemi, che fa la stessa cosa che fa il server web con la regia on web, ma lo fa dal vostro sistema, in modo che voi abbiate un controllo totale diretto su quello che fate, e potete entrare, tra l'altro in questo caso, in diretta in qualsiasi istante, in qualsiasi momento che voi vogliate. Non esiste secondo me un metodo migliore o peggiore rispetto a questi due, è semplicemente una questione di esigenza. Il vantaggio del fronte web è il fatto che da cellulare sei ai Caraibi, sei ingrippato qualche cosa, puoi andare lì a smanettare e far risistemare tutto, cosa che potresti fare anche con il tuo computer, ma richiederebbe ovviamente un TeamViewer o cose del genere, insomma, quindi meno male. Però insomma, da un certo punto di vista, da quel punto di vista, la versione web secondo me è più agevole, poi dipende un po' da quanto siete un po' smanettoni, però insomma il software che avrete sul vostro computer, sia che sia un software professionale, quindi costoso, che sia un software gratuito come Radio DJ, che è quello che utilizzo io, che è un software open source gratuito ma di altissimo livello, di altissimo profilo professionale, chiaramente la differenza la sentite, perché comunque un software all'interno del sistema programmato, fatto con il vostro disco, con le transizioni come le volete voi, con il voice tracking come volete voi o via dicendo, sicuramente non ve lo darà mai un servizio in web, anche se, e noi l'abbiamo testato, c'è un software abbastanza recente che è LibreTime, che però insomma è troppo cervellotico, non è pensato per noi, diciamo, è pensato più per chi veramente deve schedulare degli streaming 24 ore su 24, per le radio già professionali, quindi è un discorso un po' più complicato. E se no poi c'è il sistema misto, ovviamente, che è quello che utilizziamo noi, cioè noi abbiamo contenuti online che vanno a rotazione su una determinata programmazione, ossia durante l'arco della giornata c'è tutto un palinsesto predefinito e registrato, e poi la mattina e la sera ci sono i nostri programmi che vanno in streaming on air, in live, con Walter, me, Leo, Michela e chi più ne ha più ne metta, insomma, poi ovviamente io, Tomaiuolo, Carlo Sant'Agostino, insomma vabbè, tutti i vari membri che fanno parte ovviamente di questo progetto. Ecco, questi sono diciamo le tre cose principali da tenere in considerazione, dopo aver capito che tipo di impronta dare alla vostra radio, dopo aver capito come inserire i contenuti, dovete decidere insomma, diciamo, che tipo di impronta volete dare alla vostra radio, se avere un controllo diretto totale in locale o se avere un controllo misto o addirittura un controllo totalmente sul web. E questi sono secondo me un punto importante per capire proprio come gestirete la vostra web radio. want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, gone, gone, gone. The river's gonna cry when you're gone, gone, gone, gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. Mi dispiace per Loving Caliber, perché purtroppo, che è bello il titolo di questa canzone, che mi sa che abbiamo già messo, The River's Gonna Cry When You Are Gone, Where You Are Gone, scusate, stava una riga sotto, non l'ho visto. E no, perché mancano pochi minuti e quindi alla fine devo accelerare un pochino per insomma fare un discorso finale su questi elementi, insomma, che si aggancia un po' al tema precedente e che poi alla fine comunque rimanda a quello che sarà poi il primo episodio, insomma il primo vero episodio di questo nuovo show che si chiama Come ti costruisco la web radio, titolo che io e Michela prendiamo sempre dai famosi show che si vedono su Fox, su quella Come ti costruisco una casa, Come ti sfascio il cesso, come... Insomma, a noi ci viene sempre da ridere quando vediamo questi titoli. Allora ne ho approfittato, ho detto: senti, stamattina è venuto in mente così e sarà così. Dunque, software gratuiti o a pagamento, sia web che dal punto di vista desktop, diciamo prevalentemente desktop. Ci sono una marea di software di grandissimo livello professionale a pagamento per quanto riguarda ovviamente la versione desktop, tipo i prodotti Sam Broadcaster, Sam Broadcast, Samcast, insomma tutta la famiglia di Spatial. Poi ci sono altri, uno addirittura anche italiano, tra l'altro, insomma di grande qualità. Sono software che aiutano la progettazione, la programmazione del palinsesto e la gestione in automatico quando ovviamente non sei live, ma ti permette anche di fare una regia schedulizzata anche dello show diciamo in diretta, perché in teoria quando tu fai la radio, se vuoi fare la radio come la fanno che ne so ad RDS qui a Roma, cioè proprio la super radio moderna dove non c'è neanche un frammento di secondo libero, tu hai praticamente una progettazione temporizzata di quello che deve essere inserito all'interno dello show, del momento, dello speaking e via dicendo, e lo speaker si deve adeguare ovviamente a tutto quello che è il timing che vede anche lui su schermo, e quindi insomma alla fine ecco, i software servono a questo fondamentalmente, ad avere una pianificazione di tutto quello che succede 24 ore su 24 nella radio, a dare il timing anche per le trasmissioni che sono online, a inserire gli orari, a inserire i telegiornali, a inserire le charts ovviamente, a inserire comunque magari eventi specifici, eventi speciali all'interno della programmazione. Ed è questi software ovviamente la maggior parte costano abbastanza, ma è anche normale perché sono software comunque altamente professionali e molte radio di media fascia insomma li utilizzano, anche se facendo parte poi ovviamente del gruppo di discussione di Radio DJ, che Radio DJ non è scritto Radio DJ come la radio, ma è scritto Radio DJ, quindi con l'acronimo. Radio DJ è un software una di regia automatica che è completamente open source e gratuito, fatto da un gruppo di romeni che poi dopo alla fine si è esteso e è diventato un progetto internazionale ed ha la stessa interfaccia e configurazione di uno di quei prodotti professionali. E secondo me, ovviamente, con delle migliorie che vengono inserite lentamente, raggiunge la qualità ovviamente dei prodotti professionali, ed è integrabile in una maniera incredibile, perché cioè, avendo l'opportunità di essere stand alone e basato su un database, così come succede praticamente anche a tutti gli altri software che praticamente si basano tutti su database SQL, hanno l'opportunità di avere 50 profili diversi con 50 database diversi, insomma veramente una cosa impressionante. E soprattutto il timing, il ritmo e la velocità con la quale ovviamente la qualità viene distribuita all'interno della programmazione è veramente interessante. In più, la maggior parte di questi software, compreso Radio DJ, ha tutta una parte di SP, ossia praticamente alla gestione, diciamo, della compressione, dell'equalizzazione dell'audio, in maniera tale, e questo è un punto fondamentale di cui parleremo veramente più avanti, tutto è allo stesso livello di volume. Questa è una cosa fondamentale, perché se da una parte ammazza la dinamica delle canzoni, dall'altra permette alle persone di non stare lì ad alzare e abbassare il volume, come succede in tantissime altre situazioni meno professionali, diciamo così, più amatoriali, ecco. E la compressione, la normalizzazione in tempo reale, l'equalizzazione sono aspetti fondamentali, perché l'equalizzazione e, diciamo, l'aspetto estetico del suono dà la personalità alla radio, che tipo di impronta tu vuoi dare. Cioè tante volte tu ascolti Radio DJ e già solo dal suono che emette tu riconosci che è Radio DJ. E l'altro è ovviamente un sistema di livellamento che è fondamentale all'interno del discorso della radio. Quindi ecco, parleremo di questi software ovviamente, perché è importante, insomma, riuscire a capire quale scegliere a seconda ovviamente del proprio obiettivo, e capire dove possono essere le limitazioni di un programma come Radio DJ rispetto a quelli più professionali. Poi all'interno di questo progetto che sto portando avanti, che è partito questa mattina, probabilmente poi faremo anche piccole interviste a anche altre persone che magari possono essere di esperienza rispetto ad altri software che magari non abbiamo potuto esplorare. Un altro elemento fondamentale ovviamente la costruzione del palinsesto, e qui dovete avere le idee chiare, dovete avere una mente organizzata, perché questi software, sia in web che dal punto di vista desktop, vi permettono di fare una schedulizzazione totale di tutto quello che succede all'interno della vostra radio 24/24, permettendovi poi di non stare lì a soli 10 fammi partire il file, cioè, esatto, questa è una cosa importante. Però dovete avere un'idea chiara di quello che è il palinsesto della vostra radio, come la volete scandire, come la volete suddividere, quando vanno certi tipi di contenuti piuttosto che altri tipi di contenuti. E questo è un elemento fondamentale, perché comunque se non hai un po' la mente organizzata rischi di fare solo e disordine, e il disordine non aiuta, anche perché avere una programmazione fissa sia in live che dal punto di vista della difterite, scusate, siamo talmente abituati a utilizzare questo termine per scherzo che alla fine diventa un incubo, della differita, quindi ovviamente del podcast trasmesso diciamo in replica. Dovete avere comunque le idee assolutamente precise, perché ogni giorno le persone devono sapere che cosa c'è e a che ora c'è all'interno della vostra radio. Purtroppo, e qui possiamo segnalare diciamo alcuni difetti, che alcuni dei software via web, che sono quelli diciamo più soggetti alla manipolazione, alla programmazione costante, dato che sono open source, a volte negli aggiornamenti si innescano dei difetti, dei bug che spappinano completamente quello che è l'ordine delle playlist e quindi della schedulizzazione che voi avete fatto. Questo purtroppo può succedere, quindi se avete l'opportunità e dipende da voi, non dipende da chi vi offre il servizio, prima di fare gli aggiornamenti fate sempre attenzione, controllate nei forum, vedete un attimo, o se avete un piccolo server locale dove poter fare dei test, fateli, insomma, perché è una cosa assolutamente importante. Bene, io penso che questo sia un po' il discorso, il fulcro di questo tipo di lavoro, parleremo ovviamente di questi software, sia dal punto di vista della regia che, come dice DJ Joker giustamente, anche dei software con i quali fare streaming. Noi ne utilizziamo uno e penso che sia quello più usato in assoluto, anche se, come dice giustamente Alex Raccuglia, la prima volta che l'ha installato su Mac dice: cioè, tu mi stai mettendo un pezzo di Windows 3.1 sul Macintosh. Sì, però funziona ed è probabilmente il più antico sistema di streaming che funziona veramente e continua a funzionare, ed è gratuito e sta lì veramente un grande strumento, che è BAT, di cui ovviamente parleremo, perché poi bisognerà capire anche come agganciarsi chiaramente, ma questo è un punto, come ho detto, sono tutti discorsi tecnici che faremo più in là, quando ovviamente inizieremo a parlare proprio più nello specifico di quello che è questo tipo di discorso. Intanto ho dato un'infarinata, spero assolutamente che vi sia piaciuta, ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare chiaramente questa nostra prima puntata che abbiamo fatto in live. Poi vedremo nelle prossime puntate se faremo in live anche quelle, oppure se questo programma sarà prevalentemente realizzato in podcast. È tutto da vedere. Cerco di fare una puntata settimanale, così almeno insomma non ci perdiamo di vista su questo tema, magari che comunque interessa a diverse persone. Detto questo, ringrazio ancora Walter, Vincent Valentine, Leo, Michela, DJ Joker e tutti quelli che sono passati o che hanno ascoltato, tutti quelli che ascolteranno. Ringrazio ancora anche Morgan per avermi dato questa opportunità, insomma, di avermi dato il là, perché ogni tanto qualcuno mi dà una botta per partire con questo progetto. Vi ricordo, insomma, www.rantameradio.it, se volete sostenere il progetto, lì c'è il pulsante Anche Io, dove potete ovviamente fare una donazione una tantum su PayPal oppure una donazione ricorrente su Patreon. Soprattutto questo mese è importante perché c'è stato un crollo delle inserzioni su Spreaker, quindi per la prima volta dopo tanto tempo torneremo in passivo, diciamo così, dopo che siamo stati in pareggio un lievissimo attivo per tantissimo tempo, insomma, quindi questo non è un buon segnale, diciamo così, che un po' mi preoccupa, però vedremo insomma di risolvere ovviamente anche questo. Grazie a tutti e soprattutto buona giornata, ciao!